che non lo vedi. Il mio padrone mi manda qui con il signor Rotaio per far la scritta del suo matrimonio e m'ha detto ch'io meni un testimonio. Oh bella, oh bella, ed il signor Marchese non deve essere presente a questo fatto. Verrà per sottoscrivere il contratto. Ora è andato a disporre gli ordini per la partenza, gli abiti per la sposa, le carrozze di gala ed ogni cosa. Oh, figlia mia, che gran fortuna è questa. Ebbene, signor notaio, io farei quasi conto che incominciaste a scrivere. Sono